guarda il nostro giardino, i rami spogli e le foglie a terra. Eravamo assetati, ma hai portato ghiaccio. Dove sei stata? Da dove è entrato quel freddo che ci ha fatto tremare, lasciandoci sospesi nel gelo? Prima è come fuoco, come sale su un cuore aperto, ma poi pian piano sfuma in una stanchezza muta. Dove era stato? Quanto è passato dal giorno in cui per un attimo ci siamo creduti immortali? Tardi ormai per svuotare i nostri archivi in cerca di un motivo per